Dunque, tempo della riforma. Io cercherò di fare un breve quadro del Cinquecento, degli inizi del Cinquecento, quando appunto la riforma luterana ha inizio. Il Cinquecento è un'epoca in cui tutta una serie di scoperte dei secoli precedenti in un certo senso stanno maturando e stanno avendo gli effetti. La più ovvia, le scoperte geografiche di fine 400, che comunque proprio agli inizi del 500 colpiscono molto, non tanto in questo primo momento l'economia dell'Europa, cominciano a colpirlo intorno al 1520-30, quando comincia a arrivare un po' di oro e di argento americano, ma colpiscono molto l'immaginario, colpiscono proprio la visione che si aveva del mondo, proprio la visione geografica, cioè cadono le colonne d'Ercole. Capite che diventa difficile leggere anche solo la realtà geografica con le coordinate che c'erano prima. Si mette in dubbio la terra piatta, si mette in dubbio tutto il sistema aristotelico. Non è che prima non l'avessero mai messo in dubbio, però adesso proprio si sta scardinando e sta venendo giù. Pochi anni dopo la riforma ci sarà Copernico che fa crollare non soltanto l'idea, il sole si muove attorno alla Terra, cioè ti salta per aria tutto, salta anche la fisica aristotelica, salta la teoria dei luoghi naturali, eccetera. Cioè in questo momento ci sono le crepe di tutto questo edificio teorico-culturale che incominciano ad allargarsi. D'altra parte queste crepe si allargano più rapidamente perché c'è la stampa, di cui si è parlato, credo, venerdì scorso, se ben ricordo, cioè se non c'ero, ma me l'hanno detto, e quindi la stampa fa accelerare tutto questo processo. Dall'altra parte ancora le armi da fuoco, che non sono una novità agli inizi del Cinquecento, ma che cominciano ad avere effetti sempre più tangibili sul campo di battaglia, stanno diventando, le armi da fuoco appunto, gli strumenti della guerra, mentre prima c'erano le spade, le corazze, eccetera. Siamo ancora in una fase di transizione, però proprio pochi anni dopo l'inizio della riforma, 1525, c'è la battaglia di Pavia, che diciamo può essere considerata la tomba della cavalleria feudale francese di fronte a picchieri e archibugieri tedeschi e spagnoli. Quindi questo non è soltanto un fatto militare, ma è un fatto politico-sociale importantissimo, cioè che la vecchia cavalleria feudale di epoca medievale non funzionasse più, lo sapevano da quasi 200 anni, dalla battaglia di Crecy agli inizi della guerra dei cent'anni, e poi è stato confermato da altre battaglie, per esempio in quella guerra, però non c'era, diciamo, la certezza che un mondo fosse tramontato. Ed è proprio in questo senso interessante vedere che proprio mentre questo mondo cavalleresco sta proprio finendo, Ariosto scrive l'Orlando Furioso con le armi, i cavalieri, eccetera, che è proprio l'esaltazione di quel mondo che non c'è praticamente più, o perlomeno che si cerca di tenere in vita ma fatica. Quindi anche questo è un cambiamento molto profondo che sta andando avanti, cioè le armi da fuoco portate sul campo di battaglia. Nel secolo prima c'erano, ma erano i grossi cannoni che servivano soprattutto per demolire delle fortificazioni. Adesso diventano più maneggevoli, appunto, gli gli archibugi cominciano ad avere la meglio sulle corazze. Ecco, accanto a questo quadro, poi anche qui, da più di 100 anni, c'è tutto il discorso dell'umanesimo che sta andando avanti. Da una parte c'è la riscoperta del mondo classico, accanto a questo c'è una grossa rivalutazione del latino, e questo contrasta un pochettino con le spinte che invece all'epoca erano fortissime degli stati nazionali e regionali. Cioè, mentre da un lato nell'Europa degli inizi del Cinquecento si va verso realtà politiche di tipo nazionale, Regno di Francia, Regno d'Inghilterra, Regno di Spagna, che si unifica proprio alla fine del 400, le realtà regionali in Italia e in Germania che si consolidano più o meno nello stesso periodo. Ecco, mentre quindi si va verso una frantumazione, d'altra parte diciamo che il modello che politicamente sta crollando, l'idea di un impero universale, viene invece rivitalizzato dal punto di vista culturale. Gli umanisti si parlano in tutta l'Europa in latino tranquillamente, senza grosse difficoltà. Cioè, il latino è un collante rispetto alle spinte nazionalistiche. Allora, tutto questo cioè, vuol dire un sacco di cose. Tra tutte le cose metto l'accento su un fatto. Si è perso un mondo, sono crollate, diciamo, le categorie politiche tipiche del Medioevo, papato e impero. Cioè, non è che sono crollate perché ci sono ancora, però il papato quattrocentesco è stato fortemente ridimensionato e messo in crisi anche dallo scisma d'Occidente, i concili. Non posso dilungarmi su questo perché sennò non la finiamo più, però c'è stata una politica papale che è stata una politica diretta molto all'Italia, al consolidamento dello Stato Pontificio e molto meno al magistero europeo che poteva avere la Chiesa all'epoca, tanto per tagliare. Mentre l'impero si è a sua volta limitato, ha rinunciato praticamente a esercitare l'autorità che cercava di esercitare nel Medioevo diciamo, si è poi fondamentalmente ridotto ai domini asburgici, Austria e dintorni praticamente, con una, diciamo, una forza nominale ma pochissimo concreta. Quindi abbiamo tutto questo panorama dove praticamente le categorie che servivano a leggere la realtà che c'erano prima funzionano pochissimo o funzionano male. Volendo fare un paragone che ovviamente lascia anche il tempo che trova, però non so se avete presente Bosch, Hieronymus Bosch, il pittore proprio dei primi del Cinquecento, che dipinge un mondo surreale, un mondo con delle stranezze, delle cose. È un po' come se i suoi contemporanei non riuscissero più a leggere il mondo. Non hanno più gli occhiali giusti per leggerlo, perché hanno tutta una serie di idee precedenti, preesistenti, che si stanno progressivamente dimostrando insufficienti a spiegare quello che sta capitando. Cioè, vi si sta girando un po' tutto. È chiaro che non è che sia una cosa che viene fuori inizi 500, così che spunta come un fungo. C'è stata la crisi del 300 che è durata prima praticamente fino a metà 400, c'è stato un sacco di problematiche diverse che hanno contribuito a questo, ma il dato è che c'è un momento di grossa indecisione. Gli intellettuali stessi hanno difficoltà a leggere questa realtà, tant'è vero che per esempio abbiamo personaggi come appunto Ariosto che si rifugia in un mondo che non c'è più, che costruisce una bella fantasia, ma anche vorrei poi accennarlo dopo, sperando di non farla troppo lunga, anche un intellettuale come Thomas More costruisce utopia, scappa, non funziona la realtà in cui si trova calato. Ecco, in questa situazione però succede un fatto particolare. La politica matrimoniale degli Asburgo porta proprio agli inizi del Cinquecento, anche abbastanza casualmente per qualche morte che anticipata, a far convergere su un ragazzino, che sarà il futuro Carlo V, una quantità di potere incredibile. Eredita da parte di padre, da parte di madre, il regno di Spagna, da parte di padre e nonno i Paesi Bassi prima e poi alla morte del nonno del 19 appunto anche il titolo di imperatore, e quindi Carlo V si trova a regnare su una realtà che comprende grosso modo Germania, Francia, cioè Belgio e Olanda, domini spagnoli, meridione d'Italia e tutti i domini che si stanno conquistando nelle Americhe. A questo punto un'idea che pareva sepolta rinasce per un brevissimo tempo ed è l'idea della Renovatio Imperii, l'idea del rinnovamento dell'impero romano, che era una delle idee base, diciamo, di questa ideologia imperiale medievale, cioè l'impero romano è caduto ma poi è risorto con Carlo Magno e quindi si è spostato un po' a nord, però c'è ancora e in buona salute. Ecco che allora, di fronte a questa concentrazione di territori, anche alcuni intellettuali, per esempio il cancelliere di Carlo V, che è Mercurino da Gattinara, piemontese, sarà cancelliere dal 19 al 30, se ricordo bene, ci crede, dice, è possibile tornare a rinnovare questo impero. Nel quindicesimo canto dell'Orlando Furioso, nell'ultima edizione, quella del 1530, Ariosto dedica proprio, fa fare una profezia da una maga, il principe Astolfo, che racconta che in futuro ci sarà uno che viene dalle Asturie, dalla Spagna, eccetera, che riunificherà il mondo e verrà fuori il regno di Astrea. Astrea è la divinità pagana, ovviamente, che è un po' quella del bene, dell'abbondanza, della cornucopia da cui escono tutti i beni del mondo, no? Quindi fiumi di latte, miele, eccetera, eccetera. E quindi c'è questa idea, no? Della possibilità di avere di nuovo un impero che produrrà l'età dell'oro, tornerà l'età dell'oro. Siamo agli inizi del Cinquecento. Un umanista come Erasmo da Rotterdam, che per un breve periodo, nel 1516, è anche consigliere del futuro Carlo V, non è che ci creda tanto, cioè le spinte che separano l'Europa ormai sono troppo forti. Erasmo ha un altro sogno, ha il sogno di una concordia dei principi cristiani. I principi cristiani si mettono assieme e possono quindi essere, creare questo mito di Astrea, questo regno dell'età dell'oro. Quindi non è che poi tanti sono convinti, però è una possibilità che sembra potersi realizzare. Il fatto è che, come ho detto prima, le spinte centrifughe europee sono fortissime. Qual è l'unico collante che può tenere insieme un'idea di impero europeo degli inizi 500? Il cristianesimo, la religione. La religione è l'unico elemento che può tenere assieme i pezzi. Ovviamente dovremmo fare una storia parallela per sapere come sarebbe andata a finire se non ci fosse stata la riforma protestante e se fosse venuto fuori il mito di Astrea, no? Però indubbiamente c'è questo elemento e gli intellettuali dei primi del Cinquecento, i discepoli di Erasmo, che sono in tutto il mondo, un po' cercano di crederci, non ne sono tanto convinti poi, però un po' ci sperano di riuscire a tenere insieme questi pezzi. Ecco, Lutero in questa situazione ha un po' l'effetto del detonatore, nel senso che facendo saltare l'unità della Chiesa, quindi qui non voglio assolutamente entrare nel merito da laico non credente, se Lutero avesse ragione o meno, per la carità, non è il mio campo, però da un punto di vista storico la riforma luterana viene utilizzata dai principi tedeschi più che altro per evitare questa rinnovazione imperiale. Questo, diciamo, storicamente è un'interpretazione che tiene abbastanza. Poi non è solo quello, ci sono un sacco di altri problemi, un sacco di altri fattori che interferiscono su tutto. Però sta di fatto che anche se di guerre ce ne sono agli inizi del Cinquecento, non è un periodo di pace, però la speranza della pace, dell'arrivo dell'età dell'oro, eccetera, comunque viene coltivata, nel giro di qualche anno salta tutto, perché con la riforma protestante, sfruttando la riforma protestante, poi secondo me le religioni non hanno mai ammazzato nessuno, sono gli uomini che in nome delle religioni dei disastri ne hanno fatti da vendere, no? Quindi di sicuro non è una teoria religiosa, è l'uso che ne fa. Però di fatto nel giro di pochi anni in Germania c'è la guerra dei contadini, prima la guerra dei cavalieri, poi la guerra dei contadini, Thomas Münzer, eccetera eccetera, ma poi l'incendio si allarga dappertutto, perché nella seconda metà del Cinquecento c'è la guerra civile in Francia, gli ugonotti e cattolici, e poi c'è la guerra dei trent'anni, e quindi andiamo avanti fino a metà Seicento. Cioè quello che era stata una speranza degli intellettuali, è così, un sogno, esplode di fronte diciamo, alle forze che la riforma protestante mette in moto. Ed è, con questo poi chiudo, significativa una cosa: nel giro di pochi anni Erasmo, che era diciamo rispettato in tutta la cristianità, considerato un forse un grillo parlante anche, però comunque un punto di riferimento fondamentale, eccetera eccetera, viene messo all'indice. Cioè l'antidoto alla stampa lo trovano poi con l'Index Librorum Prohibitorum, e Erasmo viene messo all'indice. Tommaso Moro, suo discepolo, viene proprio decapitato. Cioè, Erasmo muore prima e quindi si eviti i problemi, Tommaso More, e in questo caso è interessante anche vedere come si può leggere Utopia di Thomas More proprio nel senso che ho detto adesso, cioè Utopia cosa fa? Descrive nella prima parte il mondo inglese che non funziona, nella seconda parte questo mondo bellissimo dove tutto funziona. Però Thomas More continua a dirti guarda che non è vero, utopia vuol dire in nessun luogo, quindi questo che ti sto raccontando non c'è. Il principe si chiama Ademus, senza popolo, il fiume Anidro, senza acqua. Guarda che non c'è niente di questo. È un po' come se Thomas More se ne intendeva e capiva la realtà che lo circondava e vedeva appunto questa esplosione legata appunto alla riforma protestante e tutto il resto, e capisse questo e dicesse ai posteri praticamente guardate che a noi sarebbe piaciuto un mondo dove tutto funziona, c'è il mito appunto di Astrea, c'è la cornucopia che espande fiumi di latte, di miele, eccetera, eccetera. Noi non siamo riusciti a farlo. Voi in futuro chissà se potrete. E con questo chiudo qua. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, il professore ha parlato un po' dell'introduzione storica, io mi addentrerò un pochino sull'aspetto sia storico ma anche teologico. Intanto volevo ringraziarvi per essere venuti e mi permetto di fare un ringraziamento particolare a due mie colleghe di superiori, Graziella e Gabriella, grazie per essere venuti. Per quanto riguarda la riforma protestante, in genere il pubblico non esperto conosce più Lutero, la riforma luterana. In effetti però è un periodo di fermenti dal punto di vista teologico e ci sono anche altri riformatori, fra cui io questa sera cercherò di presentarvi Thomas Müntzer, la cosiddetta riforma radicale. E Thomas Müntzer. Questo è il monumento di Thomas Müntzer che è presente a Mühlhausen, una cittadina tedesca. E come potete vedere, viene rappresentato con la Bibbia e la spada. E c'è un motivo per questo. Intanto vedete la toga di pastore, perché lui effettivamente è un pastore protestante e la Bibbia sta a testimoniare proprio questo. Ma ha anche la spada. Questo perché è stato definito il teologo della rivoluzione, perché fu uno dei capi della rivolta dei contadini. Nasce a Stolberg nel 1490, era figlio unico e ha un'infanzia triste, un'infanzia non felice, diciamo, perché il papà, che era un artigiano benestante, viene accusato ingiustamente, vittima di ingiustizie, e addirittura viene mandato alla forca. Pare che anche la madre, una contadina, abbia subito dei maltrattamenti. Nel 1512 comunque si laurea in filosofia e teologia, e il fatto che fosse figlio di un artigiano benestante gli ha permesso di studiare e di conseguire appunto questa laurea. Conosceva bene il greco, il latino, l'ebraico, come d'altronde tutti quelli che si laureavano in teologia in quel periodo. Nel 1513 viene ordinato sacerdote. Nel 1914 diventa parroco di una chiesa ad Arschleben, la chiesa di San Michele. fra il 516 e il 517 fu un predicatore in un convento, il convento di Frosinone. Poi si sposta in gran parte della Germania, il centro settentrionale, e da uomo che ha subito ingiustizie vede le ingiustizie che ci sono in quel periodo. Tra l'altro il fatto che girasse un pochino dappertutto era comune a tutti i pastori, i preti, i sacerdoti dell'epoca. Facevano proprio come tirocinio il fatto di frequentare più parrocchie. Nel 1519 arriva a Wittenberg, la patria di Lutero, la patria universitaria, si intende, perché Lutero era nato ad Asilea. E conosce Lutero, ma anche fa amicizia con Melanchthon, un altro riformatore che è tra l'altro un grande umanista, amico anche di Erasmo da Rotterdam, che è stato citato. E in quel periodo Thomas Müntzer accetta completamente la riforma luterana in pieno, accetta i principi fondamentali della riforma, che vi voglio illustrare brevemente per capire poi anche successivamente come lui si distacca da questi principi della riforma. Quindi vi illustrerò brevemente i punti fondamentali del pensiero della riforma protestante. Solo Cristo, sola scrittura, sola grazia, sola fede, solo a Dio la gloria. Solo Cristo, che cosa vuol dire per Lutero solo Cristo? Vuol dire che al centro dell'esperienza religiosa autentica c'è solo la persona di Cristo, che è l'unico salvatore fra Dio, è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. E infatti il nome cristiani indica questo, secondo Lutero. Noi ci chiamiamo cristiani proprio perché al centro della nostra esperienza religiosa c'è Cristo. E Lutero amava molto usare i versi biblici, qui ne vedete uno, tratto dagli Atti degli Apostoli: in nessun altro c'è la salvezza e non c'è sotto il cielo nessun nome a cui ci si può rivolgere per essere salvati. Sola scrittura. Cristo è rivelato nella scrittura, cioè dove il cristiano può attingere le informazioni su Cristo per la propria salvezza? Nella scrittura. Per cui, secondo Lutero, il pensiero e la pratica cristiana si fondano proprio sulla Bibbia. Ecco perché tutti devono leggere la Bibbia. E parlando di tempo di riforma e tempo di stampa, voi sapete che il primo libro stampato da Gutenberg fu proprio la Bibbia. Per cui tutti devono leggere la Bibbia. È uno stimolo anche per la lettura, per imparare, è uno stimolo per combattere l'analfabetismo. Voi pensate che ai primi del 1900 in Germania l'80% della popolazione sapeva leggere. In Italia solo il 20%. Questo vi dà l'idea del fatto che la lettura, lo stimolo alla lettura della Bibbia, oggi probabilmente tutti possediamo una Bibbia, ma è messa lì in un comodino o in uno scaffale di libreria con tanta polvere su, allora invece era essenziale leggere la Bibbia, perché nella Bibbia si trovavano le informazioni su Cristo, che secondo i riformatori, secondo Lutero, era al centro dell'esperienza cristiana. E citava spesso Lutero questo verso della lettera di San Paolo a Timoteo, che tutta la scrittura è ispirata per insegnare, convincere, correggere, quindi era uno stimolo a leggere la scrittura. Per fortuna anche Papa Wojtyla poi l'ha detto successivamente. Sola grazia. Cristo, perché è importante? Perché è importante trovare, leggere Cristo nella scrittura, nella Bibbia? Perché manifesta l'amore di Dio, la sua grazia. Secondo i riformatori, l'essere umano è salvato per grazia, non per opera. Cioè, Lutero, traendo spunto dalla lettera di Paolo ai Galati, afferma che se Dio ha mandato il Padre, ha mandato Gesù a morire sulla croce, c'è stato un motivo. Se l'uomo si fosse potuto salvare da sé, non avrebbe mandato il suo figlio a morire sulla croce. Quindi se l'ha mandato vuol dire che l'uomo da sé non si poteva salvare. Quindi se siamo salvati solo per l'amore di Dio, per la grazia, le buone opere non sono più la causa della grazia, ma il risultato. Cioè io faccio buone opere semplicemente perché sono stato salvato. Questo è quello che diceva Lutero. E le buone opere sono rivolte al bene del prossimo, non sono più rivolte al bene mio. Quindi per i riformatori la morale cristiana è la morale della gratuità, non del calcolo. Perché se io aiuto un povero per guadagnarmi il paradiso, in effetti sto cercando di fare qualcosa per me. Se invece lo aiuto semplicemente come gratuitamente, perché io sono salvato per grazia, diventa una morale di gratuità. E poi qui Lutero citava dei versi, tipo questo degli Efesini, in cui è chiaramente espresso: non viene dalle opere perché nessuno possa vantarsene, perché chiaramente se io riesco a fare più opere rispetto a un altro posso dire: sono stato bravo. Invece no, la salvezza è solo per grazia, quindi nessuno si può vantare di dire: io ce l'ho fatta e gli altri no. E anche questo verso della lettera ai Romani, che vedete che tutti hanno peccato ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Chiaramente molti contestavano a Lutero questo tipo di pensiero, perché tu dici che siamo salvati per grazia, possiamo fare tutto quello che vogliamo, chiaramente, no? Ci comportiamo come vogliamo, tanto è la grazia di Dio che ci salva, e allora le opere. E Lutero citava spesso questo verso dei Galati in cui diceva che la nostra libertà non deve essere usata per vivere in modo disordinato, ma per servire nell'amore gli uni gli altri. Ma questo amore comunque è disinteressato, come dice San Paolo nella lettera ai Corinzi. Non cerca l'amore, non cerca il proprio interesse. Se io faccio una buona opera perché penso che così Dio mi accetta, in effetti non sto facendo un bene a qualcuno proprio per lui, lo sto facendo per me. E invece l'amore non cerca il proprio interesse. Sulla fede, chiaramente quello che ci salva a questo punto è la fede in questo amore di Dio, cioè la fede in Dio che manda il suo figliolo per salvarci, per perdonarci. A questo punto la gloria va solo a Dio, chiaramente, perché io non mi posso gloriare di essere salvato per le mie buone opere, non posso dare la gloria a nessun altro essere umano, perché l'unico che mi salva è Gesù, e quindi il culto va reso soltanto a Dio e a Gesù, che è considerato figlio di Dio. Quindi Münzer nel 1519, quando incontra Lutero a Wittenberg, accetta completamente questo pensiero, questi punti fondamentali della Riforma, li accetta in pieno. Poi si sposta in un monastero a Boiditz e lì diventa padre confessore. Qui ha il tempo per studiare, per dedicarsi alla ricerca, e in particolare studia questo mistico del 1300 che è Tauler. È importante questo personaggio perché ci fa capire alcuni modi poi di pensare di Thomas Münzer. Nel 1520 arriva a Zwickau, una città ricca di miniere d'argento, una città in cui ci sono anche industrie, le industrie delle lane, e una città in cui c'è la borghesia luterana, ma c'è anche il proletariato. Ci sono i ricchi, ma ci sono anche le persone che soffrono. E lui diventa predicatore prima nella chiesa di Santa Maria, che era composta soprattutto da persone borghesi, e poi nella chiesa di Santa Caterina, che la potete vedere qui come oggi, a Zwickau, che era formata soprattutto da operai. Qui conosce anche Nikolaus Thor e le sette chiliastiche di Zwickau. Cioè, in questa cittadina c'era un fermento particolare di alcune sette che annunciavano l'imminenza dell'avvento del millennio. Per chi di voi non lo sa, nel Nuovo Testamento, soprattutto nell'Apocalisse, viene descritto un periodo di 1000 anni prima del giudizio finale in cui ci sarà pace, pace per tutti. E ci sono dei versi biblici in cui questa pace viene illustrata simbolicamente col leone e l'agnello che stanno insieme. Una bellissima immagine questa, sicuramente. E altre immagini sono quella del lupo con l'agnello. Qui c'è un verso del libro del profeta Isaia che dice che il lupo e l'agnello vivranno insieme, staranno bene insieme. Quindi questo periodo di pace, di serenità, di 1000 anni, voluto da Cristo, è che appunto viene chiamato millennio. Quindi, fermandoci un attimo, prima Thomas Müntzer accetta in pieno la riforma luterana, poi però si studia un pochino il misticismo, viene a contatto con queste sette millenaristiche che modificano il suo pensiero. E nelle sue prediche, nella città di Zwickau, incitava, adesso vedremo meglio, a qualcosa che ha portato la popolazione ad una rivolta, e la folla addirittura scatenata, uscita dalla chiesa, tenta di lapidare un prelato che si trovava di passaggio. Questo è quello che troviamo in una predica che lui fa ai principi, ma sicuramente l'avrà fatto anche in quella chiesa. Io affermo, in conformità all'insegnamento di tutta la legge divina, che si devono uccidere i governanti empi, particolarmente i preti e i monaci che rampognano di eresia al Santo Vangelo. Chiaramente qui non è che la predica era per tutti i preti e i monaci, per quelli che lui definiva empi, per quelli che lui definiva tiranni. E da questo momento Müntzer diventa un fuggiasco permanente. In qualsiasi città non è più ben accetto. Il consiglio, infatti, della città di Zwickau lo espelle, e lui, come vedete in questa cartina, dalla Germania passa in Boemia e si ferma a Praga. I professori di questa università vedono che è una mente eccellente, un grande oratore, e lo invitano a predicare nella propria città. E Müntzer qui espresse la sua simpatia per Janus. Voi sapete che è considerato un pre-riformatore, tra l'altro finì, poverino, al rogo, perché diceva che il calice doveva essere dato a tutti i fedeli. E ci fu un periodo nella Chiesa primitiva che il calice veniva dato a tutti, poi venne in qualche modo ristretto soltanto al clero, perché si diceva che quando c'erano i vecchietti che andavano a prendere la comunione, il vino cadeva per terra e non era giusto che il sangue di Cristo finisse per terra. E lui mi diceva: no, se gli apostoli l'hanno fatto, lo dobbiamo fare. Comunque, per questo fatto Janus finì sul rogo, e lui comunque proclama la sua simpatia per questo personaggio. A Praga fa il cosiddetto Manifesto di Praga. E in questo scritto afferma che Dio può parlare direttamente agli uomini. E qui c'è l'influsso quindi la Bibbia è una testimonianza del cammino di fede, ma nell'esperienza di tutti i giorni Dio parla. Cioè Thomas Müntzer esalta l'esperienza dello spirito, e qui c'è l'influsso della mistica, chiaramente, no? Il credente che si fonde con Dio, per cui Dio gli parla, mentre per i riformatori, ma anche per la Chiesa Cattolica, Dio si è espresso nella scrittura, e attraverso la scrittura uno ha fede. La fede viene dal leggere la scrittura. Lui dice no, la fede viene dal fatto che Dio ti parla direttamente, perché Dio è spirito ed è ancora vivo, altrimenti predichiamo un Dio morto, un Cristo morto. E qui c'è la rottura con Lutero, col gruppo di Wittenberg. Lutero addirittura era contrario alla violenza e scrive un libretto, vedete qui il nome, il titolo, per contestare le idee di Thomas Müntzer. Nello scritto, appunto, Lutero condannava ogni violenza che era atta ad istituire l'ordine costituito. Nel 1523 arriva ad Hallstatt, in Sassonia, e lì viene eletto pastore. Si sposa, perché leggendo la scrittura lui scopre che i vescovi erano sposati nel cristianesimo primitivo. Si sposa con una suora che è uscita dal convento, cambia la liturgia, quindi abolì la messa latina e fu il primo dei riformatori. Lutero sarà ancora predica in latino, fa la messa in latino, e fonda la Lega degli Eletti, a cui aderiscono 500 persone di Halstead. Questa Lega è un nucleo di fedeli molto deciso, convinto, che è pronto a usare anche la forza se necessario. Ecco perché la spada in quella statua di Mulhouse. E alcuni abitanti di Halstead, stimolati dalle sue prediche contro l'impietà, chiaramente il culto di Maria veniva visto da lui come un'impietà, e quindi bisognava distruggere i templi mariani, per cui viene distrutta questa cappella di Santa Maria, e il duca Giovanni dice: voglio ascoltare quest'uomo, questo predicatore, e vediamo che cosa dice. Tutti i pastori, fra l'altro, erano non ancora titolari, dovevano tenere un sermone di prova, e viene scelto il 13 di luglio del 1524 in questo castello. Il testo della predica viene preso dal libro di Daniele, e il sermone è anche noto come predica ai principi, perché è tenuto di fronte al duca Giovanni di Sassonia, ma anche al suo figlio, il principe Giovanni Federico. C'erano presenti comunque altre autorità. In questo sermone, in questa predica, Müntzer si appella ai principi per guadagnarli alla sua causa, perché è avvenuta la rottura, come vi dicevo, con Lutero, soprattutto su quei due punti, cioè sul fatto che comunque Dio continua a parlare attualmente agli uomini, anzi gli parla proprio al cuore. La scrittura è solo una testimonianza, e anche per il fatto che lui è favorevole all'uso della violenza per destituire gli empi. Non fu ascoltato, fu anzi interrogato. Lui si difese bene, però gli dissero: sciogli la Lega degli Eletti, gli chiusero la stamperia e licenziarono lo stampatore, e gli vietarono di predicare a tempo indeterminato. A proposito della Lutero e la stampa, no? La censura comincia sulla stampa, come diceva il professore prima. Chiaramente, visto che bisogna combattere, si combatte adesso con l'indice. Qui chiudono la stamperia. Münzer scappa, va via, si rifugia a Mulhausen, che appunto, come abbiamo visto, gli dedica questa statua. Era una cittadina in cui c'erano le tensioni sociali. In quel periodo le tensioni sociali comunque erano presenti in molte città della Germania, molte cittadine. Una di queste era appunto Mulhausen, e c'era una contrapposizione fra ceti popolari e che erano guidati da un ex monaco, Pfeiffer, e le oligarchie locali. I ceti popolari insorgono, fondano il patto perpetuo, i nobili però cercano di ostacolare la cosa, cercano alleanze anche fra i contadini, ci riescono e tutte e due devono scappare dalla città. Come vedete, il povero Thomas Münzer scappa da una città all'altra perché è una presenza veramente scomoda. Lui va a Norimberga, dove pubblica questo libretto, la esplicita messa a nudo della falsa fede e la confutazione ben fondata. In questi scritti, appunto, rimarca ancora una volta Thomas Münzer le differenze fra la sua teologia e la teologia luterana. Quindi lui definisce i luterani un po' come i cattolici, che pretendono di essere i mediatori tra Dio e l'uomo. Dio parla ancora, parla direttamente al cuore dell'uomo. Questa era la filosofia di Münzer. Mentre per i luterani la Bibbia crea fede, la lettura della Bibbia, per lui invece è solo una testimonianza. Cioè nella Bibbia ci sono tante testimonianze di servi di Dio che hanno... vengono raccontate queste testimonianze, ma Dio parla ancora direttamente, e lui a questo riguardo cita ad esempio i profeti. Voi sapete che quando i profeti parlavano, si presentavano e dicevano: Dio dice, non Dio ha detto. Dio dice, Dio parla adesso. Nella confutazione ben fondata scrive delle sue idee politiche e dice: guarda, i signori e i principi sono l'origine di ogni usura, di ogni ladrocinio e rapina. Essi si appropriano di tutte le creature, dei pesci dell'acqua, degli uccelli dell'aria, degli alberi della terra, e poi fanno divulgare tra i poveri il comandamento di Dio: non rubare. Ma questo non vale per loro. E questa è l'impietà per Thomas Münzer. Per cui i principi che sostengono questo, i monaci che sostengono questo, i preti che appoggiano questo tipo di ideologia, per lui sono empi e vanno eliminati. I fermenti in quel periodo sono in Germania un po' dappertutto, e Münzer cerca di creare un coordinamento fra queste città, perché ogni cittadina effettivamente localmente si muoveva, ma non c'era un collegamento fra le varie città. Lui cerca di realizzarlo e poi torna a Mühlhausen. Nel frattempo la città era stata presa di nuovo dal popolo, era stato di nuovo costituito il Consiglio Perpetuo, e addirittura ci sono forme di economia comunistica in quella città. L'azione dei contadini dilaga per tutta la Turingia, qui vedete Mühlhausen, va dilagando un po' dappertutto, e ne abbiamo conferma ad esempio in questo scritto fatto dal riscuotitore del censo, un certo Hans Zeiss, che scrive: la plebe è in rivolta contro i signori, è intente distruggere i commenti. Il popolo è tutto pronto per la rivolta, non c'è possibilità di fermarlo. Quindi immaginate che fermento che c'era. E il dottor Lutero, quindi Lutero in persona, va per cercare di bloccare questa cosa, però non ci riesce. La reazione dei principi non si fa attendere, però, perché i principi in un primo tempo pensavano che si trattava soltanto di un problema spirituale, le solite beghe tra di loro, di come interpretare la scrittura, eccetera. Poi si accorgono che invece gli empi, secondo Münzer, sono loro, perché sono loro che mettono delle tasse ingiuste e che trattano male il popolo. E allora, quando si accorgono di questo, si muovono solidalmente tutti i nobili e anche Lutero si schiera dalla sua parte. Lutero perché si schiera dalla sua parte? Molti qui, ecco, dicono che sia stato soprattutto per salvarsi la vita. Questo è vero, in parte, perché il duca, ad esempio, Giorgio, afferma che Lutero è peggio di Thomas Müntzer, per cui è lui l'artefice di tutta questa ribellione che c'è nelle varie città tedesche. Ma in effetti Lutero era contro la violenza, per cui c'è anche una ragione, era contro la violenza, ma anche una ragione teologica che adesso vedremo. Comunque, il 15 di maggio ci sono i contadini da una parte e c'è l'esercito dall'altra parte. I contadini mandano un messaggero per cercare un accordo con i principi perché non vogliono che ci sia spargimento di sangue. I principi però erano consapevoli della netta superiorità militare. Dal punto di vista numerico sembra che fossero uguali, come dicevo. Però chiaramente i cavalieri erano molto ben addestrati, avevano dei comandanti militari molto bravi, per cui mentre i contadini erano un po' così, non solo, ma ci fu anche ci furono delle diserzioni nel movimento proletario. Perché? Perché alcuni si accordarono per un salario un po' più alto, ad esempio i proprietari delle miniere hanno cercato in qualche modo di tirare il popolo dalla propria parte. E allora a questo punto i principi dicono: no, noi non cerchiamo accordi, se volete vi concediamo l'amnistia, ma ci dovete consegnare Thomas Müntzer. Quel giorno ci fu un arcobaleno che si presentò sul cielo e venne interpretato come un segno di Dio, come un segno di Dio che stava per aiutare i contadini in rivolta. Ma quindi la risposta dei contadini fu negativa, ma cercavano ancora delle soluzioni pacifiche. E mentre i contadini aspettano ancora il messo dei nobili che dovevano rientrare per dare una risposta, l'artiglieria comincia a sparargli addosso. 5.000 contadini perdono la vita. Filippo Melantone racconta che questi contadini erano semplicemente in preghiera in quel momento, che invocavano lo Spirito Santo perché aspettavano ancora questa risposta da parte dei nobili, e invece si vedono arrivare le cannonate e vengono uccisi 5.000 contadini, altri 1.000 vengono raggiunti nella città. Müntzer sopravvive, ma viene riconosciuto dalle lettere che porta in tasca da un mercenario e viene consegnato al conte Ernesto de Mansfeld, che è proprietario di miniere, incavolato terribilmente con lui perché i minatori chiaramente venivano distolti dal loro lavoro in base a quello che gli diceva Thomas Müntzer. Viene interrogato e torturato. Lui fa un ultimo appello agli abitanti della città di Mulhausen, che non si volevano arrendere, e dice: arrendetevi, non spargiamo altro sangue, nonostante le scelte sono giuste. E la città lo ascoltò e si arrese. Il 27 maggio del 1525 viene decapitato. Nello scontro fra questi due grandi riformatori, dico grandi perché ognuno di loro, in base alla propria credenza, in base alla propria fede, l'ha vissuta veramente fino in fondo, vince Lutero. E lo scontro non è di tipo politico, ma è soprattutto teologico, di fede. Per loro ogni cosa era religione, anche la politica. Il professore prima parlava di laicità, in quel periodo era sconosciuta questa cosa. Perché anche Erasmo da Rotterdam, quando ha un duello di scrittura con Lutero, Erasmo da Rotterdam cita la scrittura in continuazione. si muovono tutti all'interno di categorie cristiane, sì. Leggono la realtà in quel giorno. Allora, adesso uno schemino sintetico per vedere come intendevano la politica. Münzer scrive: è la più grande delle atrocità sulla terra che nessuno si prenda cura di coloro che sono in distretta, sicché i potenti fanno ciò che vogliono. Quindi ha una pessima visione di chi governa, dei principi di quel tempo. E Dio li giudica ora, perché Lutero diceva, adesso vedremo successivamente, sì, ma Dio giudicherà i principi successivamente. Ma a proposito, vi voglio leggere, che è più eloquente delle mie parole, che cosa dice ironicamente Münzer a Lutero riguardo a questo. Sarebbe splendido se si comandasse questo ai tribunali. Andrebbe proprio bene ai contadini. Sarebbe una cosa splendida rinviare tutto al giudizio finale. Cioè, se effettivamente i principi risponderanno davanti a Dio della loro impietà dopo, nel giudizio finale, perché non lo facciamo con i contadini adesso? Così anche i contadini avrebbero un buon argomento quando fanno ciò che è nel loro diritto. C'erano dei contadini che chiaramente per mangiare, per sfamare le famiglie, andavano a raccogliere dei prodotti e venivano chiamati ladri. Venivano però portati subito davanti al tribunale. E allora Thomas Münzer dice: perché i tiranni, i principi dovranno rispondere dopo, davanti a Dio? Facciamoli rispondere subito. Ecco perché usa la spada. La spada per lui, visto che il giudizio finale è ora, la spada non è solo quella dello spirito, cioè la Bibbia che lui ha in una mano, ma è anche quella della rivoluzione che attua il giudizio divino. Lutero concorda nel giudicare i principi negativamente, infatti lui scrive questo: devi sapere che da quando esiste il mondo un principe saggio è stato un uccello raro e un principe pio ancora più raro. In generale i principi sono i più grandi dementi o i peggiori mascalzoni della terra. Non lo facciamo sentire politici o i governanti. Comunque questa era l'idea che aveva Lutero dei principi, quindi concordava benissimo con Münzer. Però lui diceva: Dio li giudicherà alla fine. C'è da dire però che sia Münzer, che aspettava il millennio, ma lo aspettava anche Lutero, e Lutero era convinto addirittura che Dio sarebbe ritornato a istituire questi mille anni di regno di pace sulla terra durante la sua vita. Qual era la differenza? Che Münzer aiutava Dio, lo aiutiamo con la spada, e Lutero dice: no, no, aspettiamo che lo faccia Dio. Quindi erano concordi: Dio li giudicherà alla fine, e soprattutto, secondo Lutero, non poteva esistere un mondo senza autorità terrena. Cioè, il funzionario può essere un malvagio, ma la sua funzione no. Mentre Thomas Münzer diceva: non ci deve essere autorità. Cioè, lui voleva proprio, come i primi cristiani, la comunione dei beni. Sapete che i primi cristiani misero in comune tutti i beni, e non ci deve essere altra autorità che Cristo. Sulla violenza Lutero diceva: la violenza è comunque iniqua, finisce per danneggiare più gli innocenti che i malvagi. Chi vuole combattere per l'Evangelo deve farlo solo con la parola, cioè con la predicazione. Lutero è convinto che vanno combattuti i principi empi, ma con la parola di Dio, senza la spada. E definisce la cosiddetta dottrina dei due regni, in cui questa dottrina Dio governa il mondo attraverso due regni: uno è quello di Dio attraverso l'Evangelo, e l'altro quello di Dio che governa i non cristiani attraverso la legge. Quindi l'autorità per Lutero ci vuole. e non deve esserci confusione fra i due regni. Voi sapete che in quel periodo c'erano dei vescovi che erano principi, e lui è contrario a questa cosa, come c'erano i principi che volevano interferire sui fatti teologici e religiosi. Münzer invece dice che l'Evangelo è anche Evangelo di giudizio. Il Cristo di Lutero viene definito da Münzer come un Cristo dolciastro. È un Cristo, tu parli solo di grazia, gli diceva Lutero, ma c'è anche il giudizio, e lui si rifaceva molto in questo all'Antico Testamento. Voi sapete che nell'Antico Testamento, secondo l'Antico Testamento, Dio stesso aveva ordinato di lapidare alcuni tipi di persone che facevano certi reati particolari. Quindi, visto che i principi sono degli empi e i contadini gli eletti, è giustificata l'uso della spada. La spada serve a qualcosa. Serve ad attuare il giudizio divino. Non solo, ma la presenza dei principi suscita timore, quel timore che bisogna avere solo di Dio. Questo è un passaggio molto bello, vorrei leggerlo, se non siete troppo stanchi. Posso? La povera gente, i meschini, sono così enormemente ingannati che non c'è lingua che possa raccontarlo a sufficienza. Anzi, con le parole e con i fatti fanno in modo che la povera gente non impari a leggere, a motivo delle sollecitudini per il nutrimento, e predicano vergognosamente che devono farsi scorticare e pelare dai tiranni. Quando imparerà la misera gente a leggere la scrittura? Oh caro Tommaso, tu fantastichi! I dottori devono leggere i bei libri e il contadino deve stare ad ascoltarli, poiché la fede viene dall'udire. Quindi i principi allontanano il popolo dal timore di Dio, perché temono il principe, e invece bisogna temere soltanto Dio. Fra i due riformatori vince Lutero, però è giusto anche che si sappia che c'era Thomas Münzer, e io credo che, come ha scritto Ernst Bloch, un filosofo tedesco, se i contadini avessero vinto la guerra probabilmente avremmo avuto un altro tipo di riforma. E sembra addirittura che i contadini fossero così insuperbiti dal fatto che avevano avuto delle vittorie locali facili che rinunciarono ad assoldare i mercenari, che furono invece presi dai principi. E quindi questa sera vi ho voluto illustrare un po' un'altra faccia della riforma, e spero che vi sia piaciuto. Grazie. Se ci sono delle domande, sono qui pronto a rispondere. Contatti fra la predicazione di Münzer e poi invece Calvino, cioè gli altri Zwingli, cioè altri riformatori? Allora, Münzer contattò Eco Lampadio, un altro riformatore svizzero, e con lui erano d'accordo, con Zwingli no, e neppure con Calvino, anche perché Calvino ha seguito in pieno Lutero, ma proprio in pieno in pieno. Addirittura Calvino poi va un pochino oltre, crea quello che sarà il capitalismo. Perché? Perché lui dice il cristiano, come segno della grazia divina, diventa ricco, per cui tutti i cristiani si davano da fare a lavorare come i matti, però poi c'era la morale della Chiesa che diceva non devi spendere gli stessi soldi nel lusso, in altri vizi, per cui si accumulava, e sembra che il capitalismo sia nato in questo modo, anche se poi qui c'è il professor Berzano che può parlare dal punto di vista sociologico, ci sono altre motivazioni. Comunque questo Calvino era completamente d'accordo con Lutero in tutto, va un pochino oltre perché crea il concetto di vocazione, per cui per Calvino fare l'avvocato bene è una vocazione, anche per Lutero, infatti. Cioè Dio, mentre prima c'era l'idea che solo il sacerdote serviva veramente Dio, Lutero e soprattutto Calvino dicono no, chi fa bene il proprio lavoro sta servendo Dio. Un po' secolarizza questo il concetto di vocazione. Altre domande? Approfittate. Si vede che è tutto chiaro. Chiedevo se il Münster ha ricevuto delle condanne da parte della Chiesa, forse no, magari non ce n'è stato neanche bisogno. Assolutamente, assolutamente. Prima di tutto fu scomunicato Lutero e poi tutti i seguaci suoi. Nel 1520 arriva la scomunica per Lutero e nel 1520 Münzer è ancora un luterano convinto, perché lui nel 1521 comincia un pochino a virare per conto suo, quando praticamente arriva Zwickau, lui conosce le sette millenaristiche, approfondisce un pochino il discorso sulla mistica, ma in un primo tempo, fino al 1520, era luterano in pieno, addirittura si definiva emulus Lutero, per cui proprio un emulatore di Lutero, e chiaramente tutti i luterani furono scomunicati, e la scomunica allora significava rischiare la vita. Lutero, il professore, ha detto una cosa giusta, cioè i principi approfittarono della riforma per il loro scopo, e Lutero si salvò la vita per questo. Il principe Federico gli salvò la vita, e quindi nei posti dove c'erano i principi evangelici chiaramente sopravvissero, altrimenti i luterani erano messi a morte. Thomas Münzer, lui addirittura, c'è questo scontro nell'ambito della riforma che forse non tutti sanno, non tutti conoscono. Questa ostilità verso la figura di Maria, questa ostilità che appunto è verso la figura comunque della madre di Cristo, come viene motivata? Allora, intanto Lutero, rispetto a una parte del protestantesimo, ancora considera Maria madre di Dio. La considera madre di Dio, mentre Calvino già si allontana e dice che Maria è madre di Gesù come uomo, ma non come Dio. Siccome Lutero non scinde l'umanità e la divinità di Cristo, afferma che Maria è madre di Dio, però comunque è convinto che bisogna adorare solo Dio, di questo è convinto. Soli Deo gloria, era uno dei punti che non si poteva andare indietro, proprio perché essendo stato Dio a mandare il suo figlio a morire per noi, tutte le altre creature non possono meritare l'adorazione. Questo è il pensiero di Lutero. E quindi non è che Maria non vada vista come una persona pia, una persona anche da imitare, anche i santi sono da imitare. E per Lutero infatti diceva, magari fossero tutti San Paolo, fossero tutti Maria, però l'adorazione spettava solo a Dio. E lui citava ad esempio quando San Pietro compie un miracolo, lo può leggere anche lei negli Atti degli Apostoli, e c'è questo miracolato che gli si piega davanti, lo vuole adorare, e lui gli dice, oh, io sono uomo come te, adora solo Dio. Quindi siccome i riformatori si appellano solo alla scrittura, tutto quello che non è scrittura, che è tradizione, la aboliscono. E lì chiaramente c'è un'altra grande lotta, che ha ragione, punto interrogativo, la Chiesa Cattolica dice la Chiesa è anche tradizione, non è solo scrittura. I protestanti dicono no, bisogna fare solo affidamento sulla scrittura. Sono due punti di vista totalmente diversi. Mio padre dal luteranesimo, quando ha sposato mamma, si è convertito, una conversione bellissima, tramite un vescovo di Tortona, un grande vescovo, con il quale dialogava in latino, perché mio padre conosceva molto bene il latino. Bellissimo. Un liceo scientifico di quelli una volta tedeschi. E appunto però mio padre si era convinto non solo per l'amore verso mamma, ma proprio perché ritrovava dei motivi di maggiore aderenza al suo essere nella dottrina cattolica. Io quando mi sono recata le prime volte, quando ero bambina, appunto a Vinzenbühel, dove si erano trasferiti i nonni, notavo comunque già qualche germe di quello che sarebbe costato l'umanismo, perché si scambiavano la Chiesa con i cattolici, che lassù nel nord erano molto meno nel numero, e quindi lasciavano i luterani che i cattolici utilizzassero per la Chiesa. E io notavo quanto era spoglia questa Chiesa, perché chiaramente mancano tutti gli richiami alla Vergine, i richiami ai Santi, e sono naturalmente più severe. Ecco, tanto più si va nel nord, tanto più queste sono certamente diverse. Infatti è così. Assolutamente. Adesso io sono stato ad esempio non da molto quest'estate, siamo stati insieme a mia moglie a Berlino, e il Duomo di Berlino è una chiesa in cui dentro la chiesa ci sono le statue dei riformatori. Sì, non c'è nessuno. L'ho vista 3 anni fa. L'ha vista pure lei. È chiaramente una visione diversa, mentre nella Chiesa cattolica si punta molto sui simboli, no? Per cui la statua che richiama un simbolo, qualcosa. Per i protestanti, facendo riferimento a certi comandamenti, un comandamento che si trova nell'Antico Testamento di non ti fare scultura alcuna, che viene attuato in pieno, al centro della Chiesa c'è la parola. In molte chiese protestanti si vede questo libro che è la Bibbia al centro, per dire qui da padrone la fa la parola di Dio. È chiaro che l'ecumenismo, per fortuna, attenua le tensioni, e per fortuna anche che siamo in un'epoca laica, altrimenti rischieremmo di fare ancora guerra, no? Ma ci sono alcune città, come la nostra città gemella con Asti, una delle 3 città gemelle che vivrà da secoli, attua comunque questo convivere, certo, nella stessa chiesa delle 2 comunità, quindi sì, non dappertutto. Ma addirittura secondo gli studi dei sociologi, e qui abbiamo un grande rappresentante, il professor Berzano, dell'Università di Torino, la spiritualità, ci sono forme di spiritualità senza Dio, giusto Luigi? Scusa se ti chiamo in causa. No, se Gianprove mi permette, io vorrei fare una domanda a te e una invece a Vittorio Capovicino. La domanda a te è questa: dopo gli anni 68, la teologia della liberazione, insomma, tutti i movimenti di opposizione che sono nati, prevalentemente a difesa delle classi proletarie, si richiamavano a questo? Questa è la domanda che farei a te. Mentre invece a Brignolo farei la domanda sulla sua mostra. Cioè la mostra che vediamo ancora qua esposta nasce dalle ascolti di Münster, dalla teologia di Münster, dal pensiero di Münster. Ballo a mia inciampunta. Ormai si fa tutto. E quindi intanto complimenti per lo svolgimento della conferenza, hai fatto una storia completa. Io ho detto a lui e sua moglie si sono messi d'accordo per farmi impazzire, perché sua moglie la settimana prossima parlerà di Giacomo Brutto, e sia Thomas Müntner che Giacomo Brutto, l'ho detto l'altra volta, sono i miei santi. Io non sono credente, però ho dei santi laici. Tra questi c'è Thomas Müntner e c'è Giacomo Brutto. La cosa è stata interessantissima, abbiamo capito le differenze di posizione e anche dottrinali, ma anche politiche però, perché poi alla fine il conflitto tra Lutero e Münzer era un conflitto anche politico, uno si è schierato dalla parte dei ricchi, no, e l'altro si è schierato dalla parte dei poveri. Io credo che si possa anche dire che Lutero è stato il primo economista della borghesia nascente. Ma la domanda che voglio fare è questa, visto che Luigi Battinati ha parlato della mostra. Ecco, vorrei sapere, perché non conosco bene lo scritto, nel 1524, l'anno prima della morte di Thomas Münzer, a Weimar viene convocato perché, come hai spiegato tu, quando si fa il dottorato in teologia, ecco, lui parla di questo, che mi sembra una cosa importante e che spiega anche la posizione di Thomas Münzer. Thomas Münzer spiega un suo scritto intitolato Testimonianza sul primo capitolo del Vangelo di Luca. Secondo me questo la dice lunga sullo schieramento di Günther. Grazie anche. Allora, rispondo al professor Berzano. Sicuramente la teologia della liberazione è una teologia che si pone una domanda. La libertà cristiana, il credente, è libero sotto l'autorità, sotto il principe, come è un po' quello che si chiedeva a Münzer, e in questo sicuramente si richiama a Münzer, quel tipo di teologia, oppure è libera senza il principe, senza un'autorità. Io credo che la libertà cristiana vada da una libertà sotto il principe a una senza il principe. La democrazia, cioè il popolo è il principe, no? Dovrebbe essere così. Per cui sicuramente la teologia della liberazione si ispira molto a Münzer, anche gli anabattisti successivamente si ispirarono a lui e in un primo tempo usavano la violenza anche loro. Oggi gli eredi degli anabattisti sono i battisti, che però non usano nessun tipo di forma di violenza. E sicuramente il Vangelo di Luca è il Vangelo che non spiritualizza, mentre in Matteo c'è scritto beati i poveri in spirito, no? I poveri in spirito, per cui io, anche se sono ricchissimo, mi sento un povero in spirito, mi sento a posto. Il Vangelo di Luca dice beati i poveri, punto, i poveri. E allora il Vangelo di Luca è sicuramente un ispiratore di Münzer, ma anche della tua mostra, quindi che è presente, gli facciamo pubblicità a Armando Bignolo. Questi quattro che vedete sono la sua opera. Certo, il Vangelo di Luca proprio prende sul serio la povertà. I poveri sono beati, ma non quelli di spirito, i poveri. E Münzer dice che i principi sono gli empi, in questo senso. In un primo tempo comunque lui pensava che Dio si volesse usare della spada dei principi, per cui sperava che questi principi diventassero buoni, non più empi. I principi però, quando si accorsero che non era solo un fatto spirituale, lo eliminavano in quella guerra sanguinosissima dei contadini. E sappiamo che nella liturgia luterana la musica che accompagna le celebrazioni è particolare rispetto a quella cattolica. Lutero stesso era un musicista, sì, molto diverso. Presso le cerimonie, diciamo, degli altri riformatori, c'era una diversa concezione della musica liturgica, oppure si teneva di più come quella luterana o come poteva essere? Allora, tra l'altro, questo non l'ho detto, grazie per la domanda perché così posso chiarirlo. Thomas Münzer era anche lui musicista, gli piaceva la musica. E come dicevo prima, fu il primo a cambiare la liturgia. La liturgia luterana, con i canti durante il culto, perché per i protestanti non esiste la messa ma esiste il culto, e la liturgia luterana ha copiato in pieno quella di Münzer, per cui lui fu proprio il primo, mise anche i canti durante il culto, e perché era un modo di partecipazione corale al culto, una partecipazione che corale non so, cioè sia nell'ascolto, perché capite che in latino nessuno capiva niente, no? E quindi la lingua volgari furono il modo per far sentire finalmente alle persone quello che si diceva a quelli non istruiti, ma anche la musica diventava un momento, il canto nella lingua popolare chiaramente diventava un momento di comunione, di adorazione corale, collettiva, diciamo così, e la coralità si richiama nell'ambito dei riformatori al cosiddetto sacerdozio universale. Per i riformatori, per Lutero, ma anche per Thomas Münzer, in questo lo segue, tutti i cristiani sono sacerdoti, tutti. In virtù del battesimo si è sacerdoti. E quindi l'autorità è di tutti i credenti. E perciò chi predica viene eletto. Ecco, in questo mi dispiace che il professore di storia è andato via. È l'inizio della democrazia, cioè chi predica viene eletto, non è per una successione apostolica, e lì chiaramente però ci sono anche delle ragioni, voglio dire, chi crede in questo modo ha delle ragioni anche storiche, però Lutero dice no. La funzione è del predicatore, però l'autorità al predicatore gliela danno tutti gli altri sacerdoti che sono tutti credenti, quindi il sacerdozio universale diventa un modo. Poi voi immaginate Thomas Münzer a questi contadini quando gli diceva: voi siete sacerdoti, siete figli di Dio, che cosa significava per i poveri contadini sfruttati, maltrattati, dire io sono un figlio di Dio? Era un modo, essere cristiano era un manto, era diventato un manto. Addirittura Thomas Münzer, vi dirò di più, pensava che come Cristo era diventato uomo, diventando uomo lui, l'essere umano diventava parte di Dio, perché in questo serviva la mistica, serviva... E per cui il contadino che diceva ma io sono figlio di Dio, ma figlio di Dio inteso che divento quasi uno con lui, era un modo veramente per risollevarsi, era rispetto ai principi, rispetto ad altri titoli nobiliari, era un riscatto, ecco. Ci può precisare la traduzione della Bibbia? Credevo che fosse proprio del Sì. Che parte ha avuto allora questo? Allora, che primato? Lutero effettivamente ha tradotto lui la Bibbia tutta per intero, per primo, e l'ha tradotta perché quasi è stato costretto, nel senso che dopo la dieta di Worms, in cui lui afferma che di fronte all'imperatore Carlo V, di fronte ai principi, che non può rinunciare alla scrittura e alla propria coscienza, chiaramente viene rapito, nascosto dal suo principe, viene portato in un castello, in una fortezza, e lì sta 8 mesi. Traduce la Bibbia, non sa come passare il tempo, però io penso che lui avesse in mente questo progetto, lì fu l'occasione, e traduce la Bibbia in tedesco e crea la lingua tedesca. Praticamente quando lui doveva tradurre dei versi della Bibbia andava, ad esempio c'è un verso dei Salmi dove parla delle mie interiori, no? E lui andava proprio nelle macellerie dove macellava, come li chiamate queste cose qui? Perché voleva che le persone capissero, comprendessero poi quello che veniva scritto, e in questo è stato veramente come vi dicevo, all'inizio del 1900 l'80% della popolazione tedesca sapeva leggere, in Italia era solo il 20%. Era il risultato del fatto che i tedeschi avevano letto la Bibbia nella propria lingua. Voi sapete, abbiamo fatto un corso con il professor Verzano a Lutea, che la Bibbia è stata messa all'indice. Cioè, quell'elenco dei libri, proprio indice significa proprio indice, in ordine alfabetico, di libri proibiti, e fra questi c'era la Bibbia, ed è stata proibita fino al Concilio Vaticano II, 1963-65. Ci voleva la dispensa del vescovo per leggere la Bibbia, giusto lui? È così? Per cui non c'era stimolo. Adesso che tutti potremmo leggerla, non c'è più lo stimolo, non ci sono più dibattiti teologici come tra Lutero e Münzer, tra Lutero ed Eck, tra grandi colossi, per cui tutti dicono andiamo a vedere come stanno le cose. Per cui ormai nessuno più la legge. Spero di avere risposto. Voglio tornare un attimo alla questione delle generazioni, poi faccio un salto dall'altra parte, sì. Ma non risulta che avesse ispirazione da Münzer, non credo che lo conoscesse, perché allora interessava il confronto Marx e cristianesimo, e quindi non da. Il fatto è che questa teologia che puntava appunto all'effetto della libertà, liberazione totale, era stata, quando è stata messa fila da parte di Razzi, che era allora prefetto della congregazione, ma in questo senso che non rinnegava il contenuto sociologico, sociale, politico, rinnegava l'ispirazione. Difatti il Papa Francesco, che viene da quella storia direttamente intesa per la vissuta sulla sua pelle, è praticamente comunista come programma politico. Basta vedere il confronto che ha fatto con Morales e questi altri discorsi che ha fatto questi ultimi anni, chiaramente non però dalla parte di ispirazione marxista, ma c'è bisogno di Marx per essere rivoluzionari. Il Vangelo di Luca, basta leggere il Magnificat e il programma di Gesù all'inizio quando si presenta a Nazareth, e la cosa pare abbastanza evidente. Credo che questa sia ispirazione di fondo. Facendo un salto però dalla parte dell'interiorità, mi ha sempre colpito il fatto che il Concilio di Trento, nel decreto della sua giustificazione, mette in guardia delle idee di fede di Lutero, suo sacro amico, forse anche da parte, secondo la quale questa fede conta quanto più è sicura, e in questo senso sottilmente riduce la fede a un'opera, la visione cattolica, diciamo in fondo tu fai la stessa fine che facciamo noi, tutti cerchiamo la sicurezza della salvezza. Tu la cerchi nella sicurezza psicologica della fede, noi la cerchiamo nei sacramenti, e mettiamo in confronto queste due cose. È interessante questa lezione, che poi nei dialoghi recenti non è tornata, anche quelli di Augusto, non si è tornata questa lezione della fede, che potrebbe diventare una riduzione ad un'opera. Tu ti autoconvinci di essere credente, resti tranquillo che sarai salvato. Questo è un rischio tremendo. Allora, Chi ha inteso la fede in questo modo non l'ha capita. Lutero affermava che anche la fede era un dono di Dio, quindi non poteva essere un'opera, e infatti veniva criticato perché credeva alla predestinazione, cioè Dio alcuni li aveva predestinati ad avere questa fede e altri no, per cui anche la fede era un dono di Dio e quindi non poteva essere un'opera. Cioè, se io ho fede, secondo Lutero, non è perché in qualche modo mi convinco e quindi Dio mi dà anche la fede. Quindi l'opera è tutta di Dio, assolutamente. In questo lui è coerente fino alla fine. Il protestantesimo successivo, in effetti, accetta in qualche modo il libero arbitrio. Per cui, sì, io scelgo. Ma Lutero no, e Calvino neppure. Sono tutte e due coerenti in questo assolutamente. Infatti nella battaglia, nel duello che ebbero con Erasmo da Rotterdam, che scrisse il libero arbitrio, Lutero rispose con servo arbitrio. Per Lutero è un po' come Spinoza, dal punto di vista filosofico. Noi non abbiamo libera scelta. Quindi per Lutero la fede è anche un dono. L'uomo non fa nulla, riceve, punto, basta. In questo senso il Concilio di Trento penso che non l'abbia capito. Se ci sono altre domande? L'adesione di Münzer ai movimenti millenaristi, quindi la visione della rivelazione di Dio al simbolo e non solo attraverso la scrittura ma direttamente, è una tradizione che non è finita con Münzer, è una tradizione che è tuttora presente nella cristianità in genere, ma forse anche fuori dalla cristianità, oggi che ci siamo aperti ad altre forme di spiritualità. Se potevi dire qualcosa, dillo tu, continua. Hai cominciato? Prego. Sì, è una tradizione che continua perché che Dio parla direttamente. I movimenti di risveglio si rifanno comunque a... Non c'è la violenza però di mezzo, la spada dello spirito che punisce gli empi è di Münzer e il rivoluzionario è lui. Però dal punto di vista del millenarismo ancora ci sono delle chiese che credono in questo, è un fatto biblico e per cui voglio dire c'è la legittimità anche a credere. Però se tu vuoi aggiungere... Mi riferivo anche al modello biblico che viene riportato nell'epistola ai Corinzi e la Chiesa che esercita i ministeri spirituali, sì, sì. La profezia... Diciamo che ci sono le chiese pentecostali, soprattutto quelle congregazionaliste, all'inizio erano un po' tutte congregazionaliste, poi ci sono state delle forme di organizzazione. Nella chiesa congregazionalista pura si esercita il culto un po' come è descritto nella lettera di Paolo ai Corinzi, cioè c'è chi ha il dono di profezia, c'è chi parla in lingue, c'è chi ha il dono di guarigione e nell'ambito della stessa riunione sono diversi che parlano, diversi che sono guidati dallo Spirito in quel momento. San Paolo dice: se qualcuno riceve una rivelazione, l'altro si taccia e parli l'altro ancora. È una forma di chiesa un po' come quella che c'è nella Chiesa dei Fratelli, solo che quelli non credono tanto, cioè non esprimono i doni dello Spirito in un certo modo, in cui il pastore non esiste, ci sono gli anziani. Ma è la Chiesa giovannea. Se voi leggete il Vangelo di Giovanni, non sentite mai la voce pastore. Gli anziani, il discepolo, era una forma di cristianesimo diversa. Già invece nelle lettere di Paolo si trova la parola pastore, però c'è comunque un'ampia libertà nell'ambito della comunità, ci sono questi doni in cui lo spirito viene in quel momento, ecco, non c'è, come diceva Münzer, no? Lo spirito che si rivela al singolo. E quindi c'è una forma plurale di culto. Volevi dire questo? Grazie.